Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità e lo sviluppo di un pensiero critico sul mondo, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 629 e parleremo di referendum e costituzioni, di agricoltura proiettata nel futuro, di un baronetto impegnato in campagne animaliste, di animali in via di estinzione. La ricetta della settimana, ispirata alle notizie della puntata, sarà come al solito del nostro Gabriele Palloni, la cura della colonna sonora dell'impareggiabile Gianluca Masala. Si è molto parlato e anche polemizzato nelle settimane scorse circa alcuni referendum che si sono poi tenuti in Svizzera lo scorso fine settimana. Ad alcuni quei referendum parevano un'occasione di radicale cambiamento nella relazione fra le società umane, il mondo scientifico e gli animali non umani. Ad altri sembravano invece una follia in nome di una visione troppo estrema della dignità della vita animale. Per altri ancora si trattava di un atto prematuro e destinato al fallimento. E fallimento in effetti è stato, nel senso che il referendum che puntava al divieto totale degli esperimenti scientifici su animali e anche su umani, oltre che l'importazione di prodotti ottenuti con tali esperimenti, è stato bocciato a grande maggioranza, con quasi l'80% dei voti. Si trattava, è bene precisarlo, di una norma molto radicale e che ben difficilmente avrebbe potuto ottenere la maggioranza dei consensi, e tuttavia i promotori avevano deciso di proporla comunque nella convinzione di avere così l'occasione di diffondere maggiore consapevolezza nella popolazione sulla cruda realtà della sperimentazione animale, una pratica nella quale solo in Svizzera sono sottoposti ogni anno circa 600.000 animali. In maggioranza topi, ratti e uccelli, ma anche cani e gatti. Una consapevolezza da estendere poi alle possibili alternative alla sperimentazione condotta sugli animali. È stata bocciata con il 75% dei no, in questo caso, anche la proposta di un altro referendum, stavolta limitato al cantone di Basilea, che chiedeva di garantire ai primati non umani il diritto alla vita e all'integrità fisica, proprio come avviene per gli umani. Gli effetti pratici di un eventuale sì a questa proposta avrebbero riguardato i soli primati non umani detenuti nello zoo di Basilea, in sostanza gli unici a vivere in quel cantone. Ma chiaramente il caso avrebbe creato un precedente importante, visto che finora in nessun luogo del pianeta agli animali sono stati concessi diritti fondamentali attraverso la democrazia diretta, cioè nello spirito di un allargamento volontario ai propri cugini dei diritti riconosciuti alle persone umane da parte di queste ultime. I referendum svizzeri dunque non sono andati a buon fine, ma sappiamo che la lunga marcia della dignità animale è destinata a proseguire a lungo. My death, deep on my rest, top on my chest. Detto della Svizzera, dobbiamo riconoscere che i progressi normativi riguardanti gli animali non umani sono una delle grandi realtà degli ultimi decenni. I riconoscimenti formali di tutele e diritti sono in continua espansione, nonostante la concreta condizione animale non sia in verità cambiata granché. La sperimentazione scientifica continua implacabile, nonostante un dibattito interno allo stesso mondo scientifico che scuote ormai antiche convinzioni e altrettanto antichi assetti di potere. Gli allevamenti non smettono di essere luoghi di tortura, di non vita, di sterminio, come forse peggio di un inferno, nonostante, anche in questo caso, il loro superamento appaia sempre più come una necessità ecologica e morale. La stessa vita selvatica resta sotto attacco per l'invasività di un sistema economico vorace e inarrestabile, incapace di includere nel proprio orizzonte il rispetto delle vite altrui e il senso del limite. E tuttavia, nonostante la ineffettività di molte norme, costituzioni e legislazioni continuano a cambiare, dando testimonianza di una consapevolezza crescente circa la dignità della vita animale e la necessità di proteggerla, pur nell'incapacità di mettere davvero in pratica i precetti più impegnativi. È un fatto, delle settimane scorse, che il Parlamento italiano abbia modificato la Costituzione, introducendo all'articolo 9 il principio della maggiore tutela dell'ambiente e degli animali. Abbiamo chiesto un commento su questo passaggio normativo a Luigi Lombardi Vallauri, filosofo del diritto, amico di Restiamo Animali, fra le altre cose curatore con Silvana Castignone del volume sulla questione animale nell'ambito del monumentale trattato di biodiritto curato da Paolo Zatti e Stefano Rodotà. Non ci si può che rallegrare e quasi esaltarsi, perché è importantissima. È la prima modifica dopo 74 anni nella zona della Costituzione intitolata Principi fondamentali. Quindi anche la tutela degli animali appartiene ai principi fondamentali. Abbiamo già le tre radici della tutela degli animali dal punto di vista della soggettività, e cioè abbiamo l'articolo 13 del Trattato di Lisbona del 2009, ed è una norma di diritto vigente con rango costituzionale. Abbiamo una quindicina di leggi di protezione degli animali italiane e abbiamo il titolo 9 bis del codice penale, che arriva fino al carcere per chi uccide o maltratta senza necessità gli animali. Quindi l'articolo 9 va interpretato con l'interpretazione sistematica e contribuisce a fare di questo insieme di leggi un principio che impone una interpretazione, come si dice, costituzionalmente orientata. Le leggi ordinarie vanno interpretate anche alla luce della norma costituzionale. D'altra parte bisogna dire che l'articolo 13 di Lisbona, quello che dice terrà pienamente conto delle esigenze di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, ha rango costituzionale. Diciamo, si poteva dire che potevamo anche fare a meno di questa norma nuova, ma è bello che la Repubblica lo dica anche in prima persona. E va anche inserita, sempre nell'interpretazione sistematica, pensando ad altre norme costituzionali e soprattutto alla norma tedesca, l'articolo 20A della Costituzione tedesca, che è praticamente identico al nostro. A me sembra che gli animali selvatici sono già parte dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Quindi quando la norma aggiunge tutela degli animali alla fine, secondo me siamo autorizzati a interpretarla come centrata soprattutto sugli animali da macellazione e da sperimentazione, perché gli altri è chiaro che fanno parte degli ecosistemi e della biodiversità. Quindi io la concentrerei tutta la parte sugli animali nella tutela degli esseri senzienti, della soggettività. La rarità, la bellezza appartengono alla prima parte. E certamente questa norma costituzionale contribuisce a mettere nell'angolo le leggi ordinarie, che, sebbene chiamate di protezione, accettano trattamenti terribili nella macellazione e nella sperimentazione. Finirei segnalando il concetto di responsabilità per, messo in luce da Jonas. Lui distingue la responsabilità di, quando hai fatto qualcosa che non va bene, e la responsabilità per, quando devi fare cosa rivolta al futuro. La responsabilità di è retrospettiva e quella per è per il futuro. È chiaro che questo articolo impone alla Repubblica e alla legge dello Stato una formidabile responsabilità per. Domandina, ma e come facciamo a, diciamo, farglielo fare? Perché tante volte uno è responsabile ma non fa niente. Questa domandina la lascio a voi e invece la rivolgo a me stesso e a tutti noi. Noi siamo anche noi responsabili per, nel senso di Jonas. E quindi questa nuova norma ci responsabilizza per gli animali. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house of law. The British army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read la lotta contro la sperimentazione animale per forme aggiornate e più efficaci di ricerca scientifica va ovviamente avanti nonostante gli insuccessi dei referendum svizzeri. Fra i tanti soggetti impegnati in questo campo c'è anche PETA, forse l'organizzazione animalista più presente nei media mainstream, nota per la sua scelta di arruolare via via come testimonial di campagne e iniziative varie personaggi famosi dello show business. Stavolta è sceso in campo Paul McCartney, non nuovo all'impegno in favore degli animali. Il cofondatore dei Beatles ha affiancato PETA e altre decine di associazioni animaliste europee nella campagna volta a chiedere all'Unione Europea di dare attuazione a una legge approvata ormai 9 anni fa, ma rimasta, dicono le associazioni, lettera morta. Una legge che vieta la sperimentazione sugli animali dei cosmetici. Pensavamo che quella battaglia si fosse conclusa vittoriosamente una volta per tutte, ha detto Paul McCartney. Purtroppo ci siamo sbagliati. E così è partita la campagna. La questione è oggetto da qualche tempo di una raccolta internazionale di firme promossa dall'associazione Save Cruelty Free Cosmetics. In Germania ne sono state già raccolte 64.000, in Francia più di 40.000, nella Repubblica Ceca 80.000. L'Italia non è riuscita ancora a raggiungere le 10.000. Ma la campagna prosegue. Misunderstood. They say we stand for nothing and there's no way we ever could. Now we see everything that's going wrong with the world and those who lead it. We just feel like we don't have the means to rise above and beat it. So we keep waiting, waiting, waiting on the world to change. We keep on waiting, waiting, waiting on the world to change. It's hard to beat the system when we're standing at a distance. So we keep waiting, waiting, waiting on the Francesco Pannier, giornalista e attivista esperto di questioni ecologiche, sta componendo a Restiamo Animali un vademecum utile a orientarsi nel mondo dell'informazione sullo stato di salute del pianeta e sulle scelte che vengono via via compiute nel tentativo, almeno ufficialmente, di contrastare l'emergenza ambientale e climatica in corso. Lemma dopo lemma, attingendo da parole e concetti molto usati nell'informazione corrente, Francesco mette a nudo contraddizioni e infingimenti, smascherando spesso ciò che si nasconde dietro parole usate come schermi, al fine di coprire le reali intenzioni dei vari poteri politici ed economici che dominano la scena. Oggi Francesco ci parla, per la sua rubrica Lessico dell'Antropocene, di agroecologia. Oggi il termine agroecologia è entrato nel glossario comune per definire un orizzonte di trasformazione del sistema alimentare cui tendere in seguito alle derive della crisi ecologica. Tuttavia, già nei primi anni del Novecento, scienziati ed ecologi hanno cominciato a parlare di agroecologia, riferendosi all'utilizzo di principi ecologici nella coltivazione della terra. La rivoluzione verde, che ha dominato il periodo dal secondo dopoguerra ai giorni nostri, ha reso poi egemoni altre idee di sviluppo, basate su pesticidi e fertilizzanti chimici, aumento delle rese e monocolture brevettate, che oggi però si rivelano drammaticamente inadeguati a plasmare il futuro. Così torna in agenda il tema dell'agroecologia, contesa fra chi, come parte dell'Accademia, alcune ONG e le grandi imprese, cerca di interpretarla solo come armamentario di tecniche per una cosiddetta intensificazione sostenibile dell'agricoltura industriale e chi, come movimenti sociali e piccoli agricoltori, ne fa una questione di sistema. In questa seconda accezione, l'agroecologia acquisisce una natura politica, con l'ambizione di cambiare i rapporti di potere nella filiera e nella società. Il dibattito è acceso nel tentativo di dare un significato univoco all'agroecologia. Si tratta di una scienza, di un movimento o di una pratica agricola? Tutto dipende da che punto di osservazione si assume. Oggi viviamo un momento storico in cui la crisi ecologica è resa evidente da fenomeni come le pandemie e il cambiamento climatico, che amplificano le diseguaglianze e minacciano le basi della vita. Per questo l'agroecologia va interpretata nel suo senso più ampio e trasformativo, come strumento di giustizia climatica. Passare dall'agricoltura industriale ad un approccio agroecologico implica lo sforzo di riformare il sistema alimentare nel suo complesso. Nella pratica, significa scoraggiare la produzione fondata sulle monocolture e sostenere l'agricoltura familiare, che riduce gli input esterni, rispetta la stagionalità, rigenera il suolo, rispetta i diritti sociali e si rivolge al mercato locale. Le punte più radicali del movimento per l'agroecologia, inoltre, cominciano soltanto adesso a dialogare con quelle più intersezionali del movimento antispecista. Un incontro però importantissimo, dal quale ci aspettiamo che sboccino presto proposte per la sperimentazione di una produzione del cibo non cruenta, basata su un nuovo rapporto di cura e convivenza pacifica con quegli animali cosiddetti domestici, che tanto spesso soffrono nelle stalle di un'agricoltura contadina che consideriamo romanticamente ecologica, dimenticandone la brutalità. I'd be gone. If I were a train, I'd be late. And if I were a good man, I'd talk with you more often than I do. Thank you. afraid I could hide. If I go insane, please don't put your wires in my brain. Il koala è un animale molto grazioso e molto popolare, presente un po' dappertutto, dai diari scolastici ai libri fotografici sulla natura, ai fumetti, all'iconografia dell'ecologismo militante. È un animale che vive in Australia ed è un simbolo della vita selvatica messa a rischio da un sistema ideologico e produttivo che teorizza e pratica l'espansione infinita dell'estrazione di risorse dalla natura. Gli habitat selvatici fatalmente si riducono, col risultato di portare innumerevoli specie animali e vegetali all'estinzione, favorendo al contempo la diffusione di epidemie e pandemie. La notizia ora è che anche il koala rischia seriamente di sparire dalla faccia della terra. Il governo australiano nei giorni scorsi ha dichiarato formalmente l'emergenza koala, riconoscendo che questi animali stanno lottando per la loro sopravvivenza contro l'impatto di incendi, siccità, malattie. A lanciare l'allarme inizialmente sono stati alcuni esperti che, di fronte alle cifre del ridimensionamento della popolazione di koala, soprattutto nell'est dell'Australia, temono che si sia intrapresa la strada verso l'estinzione. Secondo una ricerca ufficiale del 2020, i koala potrebbero sparire dall'Australia orientale già entro il 2050. 10 anni fa il koala fu classificato come specie vulnerabile sulla costa orientale australiana e la situazione è ulteriormente peggiorata. La ministra dell'Ambiente, Susan Ley, ha spiegato che il governo sta mettendo in atto un'azione senza precedenti per proteggere i koala e ripristinare gli habitat compromessi. Ma Stuart Blanch, specialista del WWF australiano, ha fatto notare come il passaggio da specie vulnerabile a specie in pericolo nell'arco di appena 10 anni sia un declino incredibilmente rapido. La decisione del governo australiano di avviare un piano straordinario di protezione è benvenuta, ha detto Blanch, ma non impedirà ai koala di scivolare verso l'estinzione a meno che non sia accompagnata da leggi più forti e incentivi per i proprietari terrieri a proteggere le foreste. La Commissione Scientifica per le Specie Minacciate di Estinzione, un'agenzia governativa indipendente, ha stimato che la popolazione di koala è passata dai 185.000 esemplari del 2001 a 92 nel 2021. La popolazione si è quindi dimezzata nell'arco di 20 anni. If I were a swan, I'd be gone. talk with you more often than I do. Al Koala è dedicata alla ricetta della settimana, curata dal nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Tutte le ricette pensate da Gabriele per Restiamo Animali sono disponibili sul nostro sito restiamoanimali.it, sotto la dicitura Il Pasto Gentile. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ital, we're ital, and a vegan, we're vegan. I and I eat from the earth and leave the animals to give birth. No deadas, no fur, no feathers. Australia, terra di koala e non solo. Sì, ovviamente penserete anche ai canguri o ai boomerang, ma da oggi la ricorderete anche per questa ottima zuppa di zucca e noci di macadamia. Ingredienti per 4 persone per la pumpkin e macadamia soup sono 500 g di polpa di zucca, 100 g di noci di macadamia, una cipolla bianca, un cucchiaino di zenzero, una mela tipo golden, 1 litro di brodo vegetale, 150 ml di yogurt di soia al naturale, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Pulite e tritate la cipolla, fatela scottare in una pentola con mezzo bicchiere di acqua e quando questa sarà ritirata aggiungete l'olio extravergine, le noci di macadamia e lo zenzero tritati e fate soffriggere per qualche minuto. Tagliate la mela e la polpa di zucca a pezzetti e versateli nella pentola. Lasciate rosolare un paio di minuti, quindi aggiustate di sale e pepe e coprite col brodo vegetale. Portate a cottura la zucca, ci vorranno circa 20 minuti, e successivamente riducete a crema con un frullatore ad immersione. Servite la zuppa calda decorando con una spirale di yogurt di soia e qualche pezzetto di noce di macadamia. Peaches, apples, apricot, breadfruit, jackfruit, sour, sour, pistachios, to choose an almond, walnut, peanut, also pecan, sesame seeds, and flour, lemon, orange, pineapple, and melon, bulgur, wheat, and garlic, hitchikey, and rocket, pacho, and pomegranate, kiwi, corn, and turnip, berries, cherries, and strawberries, beet, and grapefruit, and celery. You see, they mean unnecessary with the lens. I when me eat them, I wonder when me eat. When me tell them, say me, I eat no fish, I no meat now. I when me eat them, I wonder when me yam. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Gianluca Masala, Anna Granata, Francesco Panier, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. And etc. etc. No deadas, no feathers. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.